Band i Amir. Circa 80 chilometri di strada ci separavano dal Band i Amir in direzione di Herat. A ovest di Bamian costeggiamo un sito ridente lungo un corso d'acqua dove spesso avevo pescato le trote insieme con gli Hakin. Allo sbocco di quella gola il paesaggio mutò. Non una falesia, non una roccia si innalzavano dinanzi a noi per rammentarci da dove venivamo. Ci trovavamo in un mondo di strana bellezza, dove brulle colline giallo pallido, tinte di ombre color malva, si succedevano all'infinito. Chiazze di neve coprivano il blu etereo del Koh i Baba, che sbarrava a sud l'orizzonte. Da lontano la terra sembrava costellata di piccole asperità che da vicino si rivelavano essere ciuffi spinosi di sparuto bota, un tipico cespuglio del deserto. Affrontammo la salita del colle di Sheidan, troppo ripida per una macchina come la nostra, per di più sovraccarica. La Ford faticava talmente da farci temere di dover rinunciare. Così fu per noi una vera vittoria quando, a passo di lumaca, arrivammo sulla cima, sotto cui si stendeva un altro mare di colline aride e nude. Il vento, gelido e violento, ci ricordò che eravamo a un'altezza di 3.300 metri, circa 700 di più di Bamian. Ci trovavamo nel cuore di un vecchio, vecchissimo mondo, sui cui sentieri erano passate, dirette verso il Kurdistan e l'India, tribù arvenne che parlavano il sanscrito vedico. In quell'immenso spazio vuoto eravamo sole, la terra e io, e sentivo che fra noi l'intesa era perfetta. Questo mondo ridotto all'essenziale, scheletriche colline appena velate da un accenno di vegetazione, non aveva molto da offrire, ma mi piaceva così. Nulla di troppo e quasi nulla di tutto. Dinanzi a me, una successione di dossi ocra, talvolta interrotta da una redura di erba medica affossata in una conca, crinali che si perdevano nelle lontananze, attirandomi infinite piste seguite con il pensiero, lasciate e poi riprese in virtù di quei rudimenti di conoscenza che mi permettevano di associare paesaggi nuovi con altri già percorsi in tempi passati, nei dintorni di Issyk Kul o nel Kunlun, fascino di un orizzonte che si vorrebbe raggiungere ma che a ogni passo si allontana. Essere accettata dalla terra, intuirne il significato, percepire infine il suo tutto e vivere la forza di tale unità, quello sarà il tempo di amarne ogni frammento, finalmente affrancata dalla cecità inerente a ogni amore parziale. Le mie meditazioni furono interrotte dallo scoppio di due gomme che ci costrinsero a cambiare la camera d'aria. Incominciavamo a temere un qualche guasto su quella pista deserta quando vedemmo venirci incontro un cavaliere che trottava all'ambio. Il volto, lungo e sottile, dai tratti delicati, ci lasciò immaginare che si trattasse di un arabo. Non ci sorprendemmo perciò nell'apprendere che era un Said, un discendente del profeta. A Bamian si diceva che un inglese era arrivato da Kabul. Pregammo dunque il Said di consegnare all'albergo di Bamian un nostro messaggio in cui indicavamo il luogo dove ci trovavamo e chiedevamo di mandarci una macchina di soccorso se l'indomani sera non fossimo state di ritorno. Ormai tranquillizzate, continuammo la nostra strada verso il colle di Shibartu. Lungo i fianchi della collina, alcuni cammelli sembravano sognare. Un cavallo scalciò davanti alla Ford e poi fuggì al galoppo, lasciando fluttuare nel vento la sua criniera selvaggia. Poco dopo raggiungemmo un vallone dove si alzavano due tende come incatenate alle loro corde tese. Accovacciata al suolo, una donna tesseva su un telaio a tre piedi. Un capo della stoffa, lungo almeno 20 metri, era solidamente assicurato al terreno. La scena era simile in ogni dettaglio ad altre viste nel Tian Shan tra i pastori del Xinjiang. Avevo l'impressione di ritornare da amici di antica data. Le donne si tenevano in disparte mentre ci venivano poste le domande d'uso. Quanti cammelli possedevamo? Eravamo russe o forse inglesi? Venite, ci invitò sorridendo la padrona di casa, dividete il pranzo con noi. Fu servita un'abbondante portata di riso in una grande ciotola smaltata, segno di ricchezza, poiché abitualmente i nomadi si nutrono di gallette di grano che vengono cotte su una piastra rotonda di ferro, oppure su una pietra rotonda sistemata accanto alle braci ardenti. Se si desidera sapere di quante persone è composta una carovana, basta contare i sassi di tal forma lasciati intorno alle ceneri. I nostri ospiti erano tutti di aspetto piacevole. Le donne portavano un costume rosso e nero e una severa pettinatura a piccole trecce nere e lucenti che, arrotolate intorno alla testa, lasciavano scoperta la fronte. Si muovevano disinvolte, con gesti autorevoli, rimettendo a posto di continuo il grande velo nero che scendeva libero dalla sommità del capo. Le bambine avevano una moneta d'argento fissata a una ciocca corta e lunghe vesti ornate di ciondoli. Quasi tutti gli uomini erano fuori con le greggi, appartenevano alla tribù dei Mandozai e presto sarebbero ritornati alle pianure del Turkestan, nei dintorni di Kanabad, perché le notti incominciavano a diventare troppo fredde per gli animali. Prendemmo congedo. Koda Hafez, Dio vi protegga. Regalando un foulard rosso a un ragazzino e qualche caramella russa agli altri bambini. In compagnia degli Hakin avevo visitato un accampamento simile. Ve ne erano infatti molti nel paese, poiché i nomadi, che per lo svilupparsi dei trasporti su camion non vendevano più cammelli, cercavano di incrementare l'allevamento delle pecore. Senza tener conto dei circa 10.000 Powinda, i nomadi trasportatori di merci, diretti ogni inverno in India per farvi degli scambi, la decima parte della popolazione afghana è ancora quasi del tutto nomade. Tuttavia, seguendo a tal riguardo l'esempio iraniano e turco, il governo era intenzionato a cambiare le loro abitudini. La vita nomade è condannata, qui come in Arabia Saudita o in Mongolia, e le ragioni della sua scomparsa sono ovunque le stesse. Le frontiere attuali, nettamente delimitate, complicano gli spostamenti dei nomadi. Inoltre, il potere centrale, per essere forte e per assicurare la libertà del proprio paese, necessita di soldati obbedienti e di contribuenti con domicilio fisso. Poco importa il prezzo da pagare. Altrettanto irrilevante è che un'indipendenza di tal genere non sia quella desiderata dal popolo nomade. I clan, che riconoscono unicamente le leggi delle tribù, non sono più ammissibili in uno stato moderno. Tralasciando i malfattori che vivono di banditismo, come certi turcomanni, i nomadi sono ricchi di qualità eccellenti. Oltre alla prestanza fisica, hanno un grande senso dell'onore e le leggi dell'ospitalità sono per loro una seconda natura. Si battono con ardimento perché non temono la morte. Usanze e religione spiegano loro che cosa essa sia e sono di assoluta lealtà nei confronti della tribù. Tali peculiarità, dopo essere state il miglior sostegno dei nomadi, oggi si rivelano per loro dannose. Quegli uomini, così radicati nelle proprie tradizioni, hanno difficoltà a diventare contadini o artigiani. I figli saranno senza dubbio più adattabili, non avendo conosciuto l'antica vita, ma nell'attesa viene sprecato questo splendido patrimonio umano. I curdi, continuamente contrastati nelle loro usanze, soffrono di una grande miseria che essi vivano in Turchia, in Iraq o in Iran. Altri nomadi, circa 200.000, cacciati dalle montagne dell'Iran meridionale, dovettero fuggire nella torrida Mesopotamia, dove perirono nell'arco di 2 anni. Nel Turkestan sono scomparsi milioni di kazaki, kirghisi e di turcomanni. I mongoli furono costretti a cedere i loro pascoli a innumerevoli coloni cinesi appoggiati dal governo. Ne risultò che in pochi anni il sottile strato di terra coltivabile del paese fu completamente spazzato via dal vento. In Arabia, il re Ibn Saud, sapendo che avrebbe potuto governare più facilmente su popolazioni sedentarie, distrusse il tradizionale sistema tribale per trasformare i nomadi in contadini sottomessi a Dio, al re e non più ai propri capi. Chi non li conosce potrebbe oppugnare che poco importa se alcune migliaia di uomini in più scompaiono dall'Asia già decimata da continue carestie, inondazioni ed epidemie. E invece importa molto. Bisogna deplorare tale perdita. Proprio dai nomadi, infatti, potrebbe nascere l'impulso per rigenerare i siriani imbastarditi, gli iraniani stremati, i cinesi decimati. In passato, dopo un breve periodo di devastazioni, essi seppero infondere l'audacia delle proprie concezioni ai popoli conquistati e, inseritisi tra antiche razze, determinarono una nuova fioritura in Cina, in Iran, in India, in Turchia. Dagli Ari dei tempi remoti fino agli Arabi, ai Selgiuchidi, ai Mongoli, quanto più povero sarebbe il nostro mondo senza i fermenti creati da coloro che, come il re David, erano nomadi. Siamo felici tra le discordie, i pericoli, il sangue, ma non saremo mai contenti sotto un padrone. Questo è il motto attribuito ai Ghilzai. E per contro, se i nomadi si ostinano a volere rimanere liberi, saranno annientati. Pare illogico forzare alla sedentarietà uomini che si occupano delle greggi quando sarà sempre necessario trovare gente disposta a svolgere tale lavoro. E questo in Arabia, in Mongolia, in Iran o in Afghanistan. Non sarebbe dunque più semplice lasciare ai nomadi l'attività che essi amano invece di distruggere il loro istinto e la loro stessa vita? Frenai bruscamente. Dritto dinanzi a noi, in una conca tra due pendii di terra rosa, sfavillava come un gioiello un lago di un blu sorprendentemente intenso. Intorno non vi era che silenzio e solitudine. Appariva per la prima volta ai nostri occhi incantati la visione della diga del re, il Band i Amir. Ai nostri piedi cresceva del grano basso, tipico di montagna, con spine rigide e robuste simili a larghe spade. Più lontano si sgranava un rosario di laghi stretti tra falesi e rosa, offrendo uno spettacolo di indimenticabile bellezza. I colori andavano dal verde mela al turchese, dal blu genziana o prussia all'indaco scuro. I primi due bacini, poco profondi, erano incassati in un cerchio di calcare di un bianco abbagliante. Gli ultimi erano collegati da larghi passaggi inclinati, cosparsi di cespugli tondeggianti, unica presenza di vegetazione in quel mondo brullo. «Questo luogo mi piace», disse Cristina, sorridendo sorpresa. «Non si vedeva anima viva e neppure una casa, soltanto uno ziarat o tomba di un santo dall'altra sponda del lago più grande». «E non è tutto!» esclamai. «Quando saremo arrivate alla base di questa falesia avrete di che stupirvi ancora, Cristina!» Scendemmo fino a trovarci a circa 15 metri al di sotto del livello del grande lago. Nel corso dei secoli, infatti, le sue acque avevano gradualmente costruito un'imponente cornice di sbarramento, di modo che si era venuto a formare all'estremità a valle un bacino sopraelevato. L'acqua scorreva in lievi onde che, debordando, scivolavano lungo la diga naturale, creavano riflessi lucenti sui suoi terrazzamenti successivi, saltellavano da un'asperità all'altra. Una di queste cascate finiva in un piccolo mulino. Contornammo la base della diga mentre le ruote della macchina facevano schizzare l'acqua chiara dei rigagnoli e risalimmo fino all'esiguo spiazzo davanti allo ziarat di Hazrat Ali. Alcuni scalini portavano a un piccolo greto e al di là, tra falesie di conglomerati violacei, il lago si distendeva come un fiordo e le sue acque blu, scuro, irradiavano una luce sorprendente. Leggere increspature cullavano erbe acquatiche, mentre grandi pesci, che nessuno ha il diritto di pescare, risalivano in superficie quasi per osservarci. Il guardiano del sepolcro, un uomo barbuto in un consunto caftano imbottito, dopo averci spiegato che il lago era senza fondo, ci accompagnò a visitare una delle due stanze dello ziarat, con il soffitto a volta e annerito dal fumo. E là, nel cuore di quel profondo silenzio, piantammo la nostra tenda. Il bacino lacustre si trasformava via via in una massa fremente di metallo fuso, mentre il sole calante tingeva le rocce di amaranto, di lilla e di giacinto. Più tardi, al momento di coricarci, si disegnarono due vie lattee, una ai nostri piedi, misteriosa quanto quella che ci sovrastava. Nondimeno fu l'alba a offrirci lo spettacolo più incantevole. Attraverso un passaggio ci inerpicammo sulla spianata dominante lo ziarat. Da lassù ci apparve una vasta superficie di bronzo lucente, gigantesco specchio rotondo che rifletteva ogni colore, ogni declivio, ogni gola e ogni variazione del mondo superiore. Quello specchio magico ci aveva appena donato la bellezza del mondo, quando una brezza leggera lo mutò in un'arena di lapislazzuli, sospesa a metà altezza tra piatte terre pallide e alte falesie che diventavano incandescenti. Camminammo in quell'eterea atmosfera fino a scorgere la seconda diga dove verdi cespugli crescevano tra i ruscelli. Ogni dettaglio spiccava netto ai nostri occhi, come ogni cosa che non soltanto appaia nuova, ma soprattutto non possa essere paragonata a null'altro. Nei pressi del sepolcro incontrammo tre donne misteriose che chiedevano medicine. Una era cieca e un'altra guidava la sua mano lungo i fianchi della macchina, soffermandosi poi a lungo sul parabrezza. Immagino la difficoltà di farle comprendere il concetto di un corpo solido e al contempo trasparente. Si dice che questa tomba, come tante altre, contenga le spoglie di Ali, genero del profeta. Due uomini pregavano nel santuario, assai pulito e imbiancato a calce. Riflettendo ancora una volta sulla cura con cui sono conservati i luoghi santi in Afghanistan, compresi che l'Islam è la forza che lega un popolo tanto dissimile per sangue, idioma e usanze. Ho visto afghani pregare nelle moschee, ma anche nei campi, nelle botteghe, sulle strade e so quanta importanza essi attribuiscano a questo momento. Considero del tutto eccezionale l'osservazione del mio vicino di Pullman, il quale, avendomi chiesto se gli europei pregavano, alla mia risposta sì, ma quando sono soli, disse: ma che serve se nessuno vi vede? Le riforme governative dovrebbero essere concepite in accordo con lo spirito dell'Islam, se le si vuole durature. Ibn Saud è riuscito ad attrarre a sé i sentimenti di fedeltà che un tempo andavano alla tribù perché ha saputo risvegliare la fede, ottenendo così di riunire, in campagna come nell'esercito, uomini i cui antenati erano stati per generazioni nemici mortali. Una leggenda spiega l'origine del Band i Amir. Ne riporto qui alcuni particolari. Il re Barbar, un infedele, opprimeva i suoi sudditi. Un uomo che era partito alla ricerca di Hazrat Ali e che l'aveva trovato vicino a Khaybak ricevette l'ordine di legarlo e di condurlo schiavo al re Barbar. Ali fu allora costretto a compiere tre imprese: sgominare il drago di Bamiyan, costruire alcune dighe in una vallata e infine salvare la propria testa. Dopo aver ucciso il drago, con un gesto di ira terribile scagliò dalla cima della montagna un'enorme roccia per formare il Band i Haibat, o diga della collera, e poi, con la propria spada, creò il Band i Zulfikar, la diga della spada. Ali chiese allora al re di incatenarlo e così legato recitò la sua professione di fede musulmana, mettendo tutti gli astanti in stato di incoscienza, e a quel punto si liberò. Dinanzi a un tale portento, il re Barbar si convertì. Begram. Invece di ritornare al nostro idilliaco accampamento di Ain Garan, ci dirigemmo verso l'albergo. Cristina aveva preso un brutto raffreddore. Un mattino, risvegliandomi nella nostra tenda, l'avevo sorpresa a guardarmi con invidia, così ben avviluppata dal mio caldo e rigonfio sacco a pelo di piuma d'oca, mentre lei tremava di freddo nel suo che era di capoc. Ormai era inutile rimproverarla per non avermi permesso a suo tempo di occuparmi del suo equipaggiamento. Era indispensabile spostarci il più rapidamente possibile verso climi più caldi. Ci congedammo dal raffinato inglese da poco arrivato a Bamiyan, un uomo barbuto, rosso di capelli e dai gusti ascetici che passava la vita a cacciare una varietà di gerboa nani, e ben presto ci trovammo sul grande versante dello Shibar. Eravamo con ogni probabilità nella regione degli Hazara. Le donne, infatti, che abitavano il grande Kalah di Bulula, un fortino a pianta quadrata con gli angoli a torri rotonde, così come quelle incontrate in un villaggio sulla cima di un colle, avevano gli occhi allungati e gli zigomi rialzati caratteristici di quella tribù. I Hazara sono musulmani sciiti e fino a tempi non lontani hanno avuto frequenti diverbi con gli afghani di fede sunnita. In mongolo, Hazara significa un migliaio, una delle suddivisioni dell'esercito di Gengis Khan. Su quei rilievi tondeggianti e inoffensivi, in estate, dove il grano cresce in fretta, osservai una scena che avrei voluto dipingere. Blu intenso del cielo, marrone scuro dei muri di Pisé, rosse vesti di donne che tessevano sedute per terra e di bambine adorne di innumerevoli treccine e di uno zucchetto ricamato. La gente era ospitale e cercammo di immaginarci la nostra vita nello Shibar per un intero anno. Alcuni cavalieri si fermarono a guardarci. Alla sella erano assicurate coperte imbottite ben arrotolate. Girando su continue curve a gomito, scendemmo lungo lo Shibar, quello stesso Shibar dove Xuan Zang si perse durante una tempesta di neve e che separa due grandi aree dell'Asia. Sempre da lì erano passate, provenienti dalla Germania, e dopo aver attraversato il Khyber e il Lataband prima di Kabul, tutte le macchine, pezzo a pezzo, tutte le putrelle, tutti i pannelli isolanti per copertura che costituivano la fabbrica di Pul-i-Kumri. Raggiungemmo una donna velata che camminava sola sulla strada con passo deciso sui tacchi alti. Affiancandola notammo che aveva sollevato il suo chador grigio, scoprendo un volto emaciato, un volto europeo dai pallidi occhi inflessibili, libero per un istante di godere l'aria libera. Vedendo che eravamo donne, non si coprì. Il suo pullman viaggiava davanti a lei. Aveva preferito andare a piedi perché la pista era pericolosa. Il marito era afghano e lavorava a Mazar-i-Sharif, ma la donna era stata costretta a partire per Kabul in seguito a una grave crisi di malaria. Riteneva che presto sarebbe venuto il momento di smettere il chador, ma che non spettasse alle poche europee sposate con afghani dare l'esempio. In tal caso, infatti, esse avrebbero avuto una vita impossibile. Il segnale doveva partire da altre, dalle signore alleate del re Zahir. Nel 1929 la moglie del re Amanullah aveva promosso una campagna in favore della soppressione del velo, ma la sua iniziativa, dimostratasi impopolare, non ebbe successo, in parte perché la madre della regina era una siriana cattolica. A quell'epoca, confidando nell'ormai prossima emancipazione delle donne di Kabul, alcune francesi, tedesche e inglesi avevano acconsentito a sposare i loro fidanzati afghani. Conducemmo la donna, che era tedesca, fino al suo pullman. Calato di nuovo il chador, era ritornata un'anonima piramide di tessuto con due piccole aperture ricamate all'altezza degli occhi. Le sarebbero corsi ancora 12 anni di paziente attesa, prima di potersi affrancare da quel travestimento, prima di ritornare se stessa e di risentire sul proprio viso la carezza del sole e del vento. Come ero felice delle mie braccia nude offerte al tepore dell'aria. E quanto eravamo fiere della nostra libertà, così difficile da sostenere, ma più necessaria della vita. Scendemmo per circa 100 chilometri, costeggiando la valle del Gorband tra piccoli campi, borghi ombreggiati da piante, ruscelli mormoranti tra i cespugli. Il tumultuoso Gorband scorre verso est per unirsi nei pressi di Sharikar al Panjir, che a sua volta si congiunge con il Kabul vicino al colle dell'Ataband. Tutte le loro acque si gettano poi nell'Oceano Indiano dopo essere defluite nell'Indo a est di Peshawar. Attraversai un guado del Gorband per riprendere alcune donne turcomanne che piantavano pertiche flessibili a sostegno della loro tenda rotonda di feltro, ma esse non gradirono e dovetti smettere. Chiudendo il mio apparecchio, le guardavo umilmente, incapace di spiegare loro quanto le amassi e che una tenda simile alla loro era stata per anni il simbolo di una delle mie più vive aspirazioni. Al momento della nostra sosta a Chahardeb Gorband sentimmo risuonare una voce di muezzin che invitava alla preghiera di mezzogiorno. Il ragazzo che serviva nella chaikana, la casa da tè, ci portò il tè su uno spiazzo all'ombra di un albero al centro del villaggio. Là passeggiavano i giovani bellimbusti del paese. Ci osservammo a vicenda. Ancora impacciato da timidezze adolescenziali, un ragazzo stava in piedi senza scopo, contento di sé. Era elegante nel suo chapan di spesso cotone blu indaco, ricamato di fiori color cremisi, il soprabito tipico della vallata. Tentata da quella veste, lo chiamai, offrendogli di comprarla. Si fecero intorno gli astanti, trasformati in consiglieri. Dopo un'animata discussione, mostrai 2 biglietti da 20 afghani. Non avendo mai visto delle banconote, il giovane chiese a un vecchio se doveva accettarle, poi si allontanò privo ormai del suo chapan. L'espressione pensierosa che si leggeva sul suo volto poteva significare: è successo esattamente ciò che volevo, o tutto il contrario, che cosa mai dirà mia madre? Semi nascoste dietro a un muro, alcune donne dall'incarnato chiaro e dagli occhi dorati osservavano con curiosità la scena. Quando questa si concluse, ci fecero segno con gesti aggraziati di entrare nel loro cortile, ma preferimmo partire, impazienti di raggiungere gli Hakin. Passando davanti alla vallata del Fondukistan, raccontai a Cristina che 2 anni prima Jean Carl aveva intrapreso alcuni scavi nei paraggi. essendo venuto a sapere che un pastore aveva scoperto nella fenditura di una collina conica la testa di un Buddha, e in effetti era venuto alla luce uno stupa al centro di un santuario a quattro lati. Una delle nicchie affrescate proteggeva una coppia principesca in creta colorata, vestita con i costumi a grandi drappeggi tipici dell'Asia centrale. Le urne contenevano ceneri funerarie e monete dell'epoca Kushana. Alcune statue di Buddha e di Bodhisattva erano scolpite con l'opulento stile sassanide, altre presentavano le curve voluttuose dell'arte indiana. Al museo di Kabul avevo visto la testa di un Buddha che sa e sorride a se stesso. Vi erano ancora tracce delle lamine d'oro di cui un tempo era completamente ricoperto. Gli indigeni impiegati negli scavi spiegavano a modo loro le ragioni per cui Jean-Carles spendeva tempo e denaro per ritrovare quelle anticaglie. Erano gli dei Faranghi, seppelliti un tempo dai musulmani. A Siaghirdi il grano era già stato mietuto e ora i vagliatori ripulivano l'aia dove l'avevano spulato. Attraversata un'ultima gola, costeggiammo ancora una parete rocciosa e poi, all'improvviso, si distese dinanzi a noi la verde e fitta vegetazione del Khuzestan. Lontano, verso est, il Panjir usciva dalla vallata, insinuandosi tra due montagne. In quel luogo probabilmente i nostri amici ci aspettavano ormai da un mese. Da Sharikar telefonai a Kabul per conoscere il posto esatto in cui si trovavano gli Hakin. Camion, biciclette, coupé, asini raglianti, folle di gente dagli abiti polverosi, ovunque regnavano agitazione e rumore. Seduti a gambe incrociate nelle loro botteghe, il viso coperto da una morbida e folta barba, i turbanti pieghettati dai colori troppo vivaci attorcigliati sul capo, alcuni Sikh ci aiutarono a capire che l'India era vicina, quell'immensa regione di 400 milioni di abitanti che ancora mi incuteva timore. Alcuni venditori ambulanti gridavano il loro ritornello. I colombi tubavano, le macchine per cucire ronzavano nei piccoli negozi, i narghilè gorgogliavano, innumerevoli mosche si aggiravano, posandosi ovunque. L'olio sfrigolava nei ristoranti all'aperto, i ciabattini martellavano di chiodi calzature a forma di gondola, passanti gettavano scorze di melone nei rigagnoli. Avevamo ritrovato la civiltà. O due personaggi che camminavano fieri e spavaldi con passo felino sembravano estranei a quel miscuglio di gente. Nobilmente avvolti in uno scialle blu scuro attraversato da una striscia rossa, lasciavano intravedere al fondo degli ampi calzoni caviglie sottili e nervose. Dall'espressione dello sguardo si intuiva l'assoluto distacco da quella febbrile attività che si agitava intorno a loro. Passando per terreni incolti, sballottate per fossati in secca, percorremmo l'ultimo tratto del nostro viaggio e finalmente arrivammo a una casupola di terra isolata sul grigio e triste pianoro che è il Begram di oggi. Joseph e Ria Hakin ci accolsero come se fossimo state le loro figlie. Giungevamo troppo tardi, avevano appena finito di imballare i reperti dissotterrati durante la spedizione estiva. Sistemata in un lettino da campo con una buona dose d'aspirina, Cristina fu curata da Ria con tanta materna sollecitudine che il suo cuore ne fu subito conquistato. Frattanto, nella stanza comune, io mi deliziavo con un pollo al vino seguito da un soufflé di cioccolato. Begram ci offrì momenti bellissimi. Erano, ma noi allora non lo sapevamo, gli ultimi giorni di pace. Quattro di noi non dovevano sopravvivere a quella lunga, folle e atroce guerra. Il comandante Joseph Hakin e la moglie sarebbero periti in mare nel 1942, allorché la nave che li portava verso Oriente, in missione per la Francia libera, fu speronata al largo della Bretagna. Pur dimenticando il mistero della città sepolta sotto di noi, si percepiva che il sito aveva un suo significato, soprattutto alla sera e all'alba, quando la luce metteva in risalto il rilievo della terra invece di appiattirlo. In nessun altro luogo avevo visto ombre tanto dense di blu, accanto a masse rocciose infiammate da un colore parimenti intenso, come quando i primi dardi del sole illuminavano la catena montuosa a nord del Panjir. In quel momento, persino la morte poteva apparire bella. Tra la foschia lilla del mattino brillava il pelo nero e setoso di un capretto irrigidito nel rigagnolo di sangue che sgorgava dalla sua gola tagliata. Mai avevo ascoltato con tanta partecipazione il rombo del vento che scendeva furioso dalle grandi montagne. Era forse perché mi ero liberata dalla febbre di vedere il paese nascosto al di là dell'orizzonte. Lasa e Papete avrebbero potuto, credo, sorgere dinanzi a me senza darmi una morsa al cuore per l'emozione, e del pari non mi sentivo più orgogliosa di essere riuscita a trasformare il mondo in un terreno da gioco tutto per me. Se non avessi notato due uomini occupati a tessere poco distante, sarei caduta in ginocchio per ringraziare i miei occhi di vedere così bene. Mi sedetti lasciandomi possedere dalla pace del Kuhestan. Al di là dell'altra sponda del fiume, piaga bianca tra basse rocce scure, scorgevo il Khwaja i Regawan, la collina famosa per le sue sabbie sonore, che talvolta durante l'ora calda del mezzogiorno cantano, risuonano come rulli di tamburi. Il medesimo fenomeno è stato osservato in altri luoghi della terra e nessuno è ancora riuscito a spiegarne le cause in modo veramente soddisfacente. Guardavo ancora più lontano in direzione della valle del Nijirao, un angolo sperduto, non ancora inquinato dalla civiltà moderna come lo è Sharikar. Joseph Hakin ci aveva accompagnate fino là con la sua intrepida sei ruote. Avevamo ammirato alcune belle porte di legno scolpite che indicavano la vicinanza del Kafiristan situato nella vallata successiva. Sul Nijirao l'imperatore Babur scrisse: «È un luogo completamente isolato. Vi crescono uva e frutti in abbondanza. Gli abitanti producono molto vino che però fanno bollire. Essi sono grandi bevitori. D'inverno mettono all'ingrasso il pollame, non pregano e non hanno scrupoli. Sono come i kafiri». Sì, contemplavo il cielo che brillava anche sul Kafiristan. Ma sarei mai arrivata fino laggiù? Avrei forse avuto più fortuna di una coppia di americani confinata a Kabul e ancora in attesa di realizzare il proprio progetto di studiare gli Hazara delle montagne? Erano venuti nel paese intenzionati a osservare i turcomanni iranici, ma a Teheran li avevano dissuasi, assicurando loro che attualmente non ne esistevano più. E si erano allora spostati a Kabul, dove non era stato possibile negare la presenza degli Hazara. Ma tra il serio e il faceto, Joseph ci fece intendere che per la politica moderna quella tribù era pericolosa quanto la dinamite. Gli afghani non volevano che se ne parlasse nel timore che i giapponesi, perseguendo la loro politica a favore della popolazione mongola e sostenendo che gli Hazara ne erano una delle minoranze, invadessero l'Afghanistan attraverso lo Xinjiang. Ria ci raggiunse e insieme andammo a visitare alcuni tessitori nostri vicini. Presso i Parsivan o Tagiki, la tessitura è affidata unicamente agli uomini, dai quali acquistai il primo pezzo della nostra collezione, un vetusto arcolaio per il Museo di Cristina. Accanto a uno di loro notai un recipiente per l'acqua, una ciotola di smalto turchese tipica di Istalif. La città si intravedeva in lontananza, disposta a terrazze sul fianco della montagna. Sprovvista di kalah in muratura e ben esposta al sole, assomigliava a un villaggio provenzale immerso fra i vigneti. Il sito fu fondato dagli uomini di Alessandro Magno e il suo antico nome era Stafilia, parola greca che significa uva. Joseph Hakin iniziava Cristina all'archeologia di Begran. Era deciso che avrebbe lavorato con lui al museo per familiarizzarsi con l'arte greco-buddista. In seguito, se le mie montagne fossero rimaste irraggiungibili, sarei andata anch'io con tutti loro a Kunduz. Ci trovavamo al di sopra degli scavi, tristi e polverose fosse sgretolate dal sole. Le numerose stanze venute alla luce avevano rivelato poco o nulla, ma nella decima era stato scoperto uno strato di vetro sbriciolato. Spingendosi più in basso, Ria aveva rinvenuto una collezione di bicchieri e di vasi di vetro inciso di una bellezza pari a quelli di Murano. Vi erano altresì vetri dipinti che rappresentavano personaggi in costumi greci, pesci decorativi di vetro soffiato, ciotole scanalate color cobalto e preziosi cofanetti d'avorio lavorato in stile indiano. decorati di nudi femminili, pieni e rotondi come pesche o ciliegie mature. Per 2 mesi Ria aveva lavorato in questi scavi, liberando i reperti dalla terra con un cucchiaio e uno spazzolino da denti. Gli archeologi avevano sistemato con cura ogni oggetto in quella stessa stanza dove era stato trovato il tesoro, murandone poi la porta. La qualità, così come la provenienza di quei pezzi vecchi di 2000 anni, conferivano alla scoperta una straordinaria importanza, poiché essa dimostrava che qui, nel regno di Kapisa e non nel Gandhara dell'Alto Indo, si erano incontrate un secolo prima della nostra era l'arte greca e quella indiana. Tale fusione aveva creato quell'arte ibrida che influenzò lo Xinjiang, tutta la Cina e tutto il Giappone. Ben prima che Alessandro Magno fondasse Alessandria ad Caucasum, Kapisi era la capitale del paese di Kapisa, conquistato da Ciro nel VI secolo a.C. All'inizio della nostra era, sotto il regno dei re Kushana o Indo-Sciti, il buddismo era saldamente radicato fino a Balkh. Nell'anno 50 Kadphise coniava moneta a Begram. Kapisi era la residenza estiva di Kanishka, il più famoso di quei Kushana che, secondo lo storico Percy Sykes, avevano tutti naso aquilino senza peraltro avere sangue semita nelle vene. Tale osservazione si riferisce alla controversia riguardo agli afghani che, pur appartenendo al tipo semitico, non avrebbero motivo di sostenere con ragione di essere una delle 10 tribù perdute di Israele. Si tratterebbe soltanto dell'origine letteraria degli afghani. Il maestro della legge, il cinese Xuanzang, trascorse l'estate nell'anno 630 a Kapisi, nel monastero di cui avevamo visto le interessanti rovine a Shotorak, vicino alle acque turbolente del Pangir. Xuanzang disse del re di Kapisa, buddista di grande devozione, che era di natura coraggiosa e impetuosa, di forza tanto terribile da far tremare i paesi vicini. Egli esercitò il suo potere su una decina di regni. Nel suo libro René Grousset ci informa inoltre che quel re inviò alcuni cavalli afghani a Taizong, imperatore della Cina. Alla fine di quello stesso VII secolo gli arabi, conquistato il Sistan, attaccarono invano Rutbil, re di Kabul. L'Islam regnerà su tutta la contrada soltanto 2 secoli dopo, allorquando un re turco di Kabul sarà sconfitto dai musulmani.